Allora, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene, l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate, Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che costruendo una casa ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò. E la distruzione di quella casa fu grande. Non so a voi, ma a me, mentre leggevo questo Vangelo, mi è venuto subito in mente l'immagine del terremoto a cui abbiamo assistito proprio recentemente. Che grande tristezza vedere un paese distrutto, vedere ovviamente prima di tutto le persone morire, ma poi anche le case scomparire, tutte le macerie, persone sotto le macerie, perdere tutto. E tutto perché questa casa non è costruita bene, non è costruita a regola. Vedete quanta distruzione possiamo provocare se non costruiamo bene la nostra casa. E allora Gesù oggi ci invita ad essere buoni. E che cosa vuol dire essere? Come facciamo ad essere buoni per produrre il bene? Ecco, una cosa l'uomo ha di particolare, che l'uomo facendo il bene diventa buono, facendo il male diventa cattivo. Cioè, l'uomo quando fa qualcosa costruisce anche se stesso, non solo produce qualcosa di esterno a lui, ma producendo qualcosa di esterno produce qualcosa anche di interiore, cioè diventa quello che sceglie di fare. Se sceglie di fare il male, gradatamente diventa cattivo. Se sceglie di fare il bene, non solo fa un'azione buona, ma gradatamente diventa buono. E il Signore oggi ci invita a essere buoni, cioè ci invita a produrre frutti. E ogni albero produce il frutto a seconda di com'è questo albero. Allora, un albero buono produrrà frutti buoni. Vedete, più noi facciamo il bene, più ci garantiamo di produrre ancora bene, proprio perché nel fare il bene diventiamo buoni e diventando buoni produciamo il bene. È tutto un circolo virtuoso invece che vizioso. Al contrario, il circolo è vizioso. Quindi, oggi vediamo, io sono orientata a fare il bene. Vedete, ieri abbiamo parlato del fatto che bisogna cercare di avere la fede, ossia di vedere la realtà come la vede Dio, perché avere la fede vuol dire vedere come vede Dio, vedere il mondo, vedere la realtà, vedere me stesso, come Dio mi vede. Ma oggi facciamo un passettino ulteriore, non solo devo vedere la realtà come Dio la vede, non solo devo credere, avere la fede e quindi giudicare come Dio giudica, ma poi passare all'azione. Allora, oggi proponiamoci di esercitarci nel bene, ma direi di essere un po' più concreti e specifici. E pensiamo a quel bene che siamo chiamati a fare noi in questo particolare ambito, in questa particolare circostanza, cioè ognuno di noi si trova in un punto specifico della sua storia, in un giorno particolare della sua storia, deve vedere con gli occhi di Dio che cosa è chiamata a fare di bene in questa giornata per poter portare frutti buoni, trasformare se stesso e continuare a portare frutti sempre più abbondanti. Buona giornata.